Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. La chiusura prosegue fino al 13 aprile, lo conferma al Senato il ministro Speranza, che parla di un lungo periodo di transizione. Oggi programmiamo il domani, dice, e investiamo nella sanità. Al via le richieste del bonus 600 euro sul sito INPS, 100 domande al secondo, impossibile accedere, ma non ci sarà un ordine cronologico, assicura il presidente dell'INPS Tridico. Premier Conte intanto incontra i rappresentanti dell'opposizione, al via un tavolo serrato, dice, in vista del decreto di aprile. Spostamenti con bambini, il Ministero dell'Interno su richiesta di Fontana precisa ancora, non cambia niente, sono consentiti per necessità e salute e sempre vicino casa. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata su Radio 24 cominciamo con l'audizione del Ministro della Salute Roberto Speranza al Senato, nel quale è stato confermato l'estensione delle misure restrittive almeno fino al 13 aprile. Nel frattempo il Governo lavora con l'opposizione in vista del decreto di aprile. Parleremo anche del sito dell'INPS che è andato letteralmente in tilt dalle prime ore in cui è stato possibile accedere per fare domanda per il bonus da 600 euro. Ma iniziamo dal ministro della Salute, Speranza. Il governo ha deciso di confermare tutte le misure di restrizione anticoronavirus fino al 13 aprile. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza con un'informativa a Palazzo Madama, dove un discreto numero di senatori si è presentato in aula con mascherina e guanti. Non bisogna abbassare la guardia, dice Speranza. I primi segnali positivi sui numeri dell'epidemia non vanno scambiati per una sconfitta del virus. La strada da percorrere è ancora lunga, perché senza il vaccino non sconfiggeremo mai definitivamente il Covid. Non solo non dobbiamo abbassare la guardia, ma tutti dobbiamo essere consapevoli che per un periodo non breve dovremmo saper gestire una fase di transizione. Il ritorno alla normalità va programmato con attenzione, spiega Speranza, perché sbagliare i tempi o anticipare le mosse vanificherebbe il lavoro fatto fino a oggi. E il Servizio Sanitario Nazionale è il patrimonio più importante che possa esserci, dice il ministro. Su di esso dobbiamo investire con tutta la forza che abbiamo. A oggi i posti in terapia intensiva, dice il ministro, sono 9.091, con un incremento del 75% in meno di un mese. I posti, cioè, sono triplicati. Ora, avverte Speranza, non è il momento delle divisioni in politica. Il clima positivo e unitario, dice, è una precondizione essenziale per tenere unito il paese in questo momento difficile della nostra storia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E prima di proseguire con la cronaca sulle notizie che riguardano il coronavirus, una ultima ora che arriva da Foggia. Due palazzine sono crollate poco fa in pieno centro storico ad Alberona, nel Foggiano. L'esplosione potrebbe essere stata causata, secondo i primi accertamenti, dalla fuga di gas di una bombola. Al momento sono già state estratte vive dalle macerie 6 persone, ne mancherebbe all'appello ancora una. E dicevamo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che stamattina ha incontrato i vertici dell'opposizione annunciando un tavolo serrato in vista del decreto di aprile. Un decreto legge da adottare subito con le misure più urgenti per dare liquidità alle imprese, un altro provvedimento la prossima settimana con misure a sostegno delle famiglie. È su questo che lavora il governo, con l'obiettivo di liberare risorse per l'economia reale per almeno 500 miliardi di euro. Lo ha spiegato il Premier Conte alle opposizioni, con le quali ha avuto un incontro di oltre due ore a Palazzo Chigi, presenti il leader della Lega Salvini, di Fratelli d'Italia Meloni, vicepresidente di Forza Italia Tajani e per il governo anche il ministro dell'economia Gualtieri. Conte ha proposto un tavolo maggioranza-opposizione che si riunisca con ritmo più serrato per assicurare un confronto che porti alla più ampia condivisione possibile anche sul piano sostanziale, mentre ha parlato del ritorno al lavoro graduale e in sicurezza, insistendo sulla linea della prudenza. Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto ci invita a non abbassare la guardia, linea condivisa da Forza Italia, mentre Giorgia Meloni ha insistito sui soldi subito, sui conti correnti degli italiani, senza ritardi burocratici. E Salvini attaccato, mancano mascherine, ossigeno, certezze su cassa integrazione e aiuti alle famiglie. Ora attendiamo i fatti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E come dicevamo, sito dell'INPS in tilt oggi per il via alla possibilità di accedere al bonus da 600 euro per gli autonomi. Il presidente dell'INPS, Tridico, ha però rassicurato, escluso il fatto che ci sia un ordine cronologico per l'accettazione delle domande. Di bonus autonomi, ma anche di cassa integrazione, bonus babysitter e congedo Covid parleremo nella seconda parte di Effetto Giorno. Intanto a Radio 24 stamattina il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, Patuelli, ha confermato la possibilità che sia lo Stato a garantire i prestiti che le banche effettueranno in questi giorni. L'idea del ministro delle attività produttive, ingegner Patuelli, mi sembra un'idea giusta, ovvero sia lo Stato dà le garanzie e poi si controlla che queste garanzie e queste risorse non vengano sperperate. Noi continuiamo a lavorare su un doppio piano con le norme stringentissime internazionali, europee e nazionali, frutto di oltre un decennio di crisi finanziaria e che quindi hanno ingessato le possibilità delle banche di discrezionalità. Dall'altro lato vi sono tutte le iniziative di moratoria, quindi di allungamento dei prestiti per chi li ha in essere e di anticipazione della cassa integrazione, che chiaramente non esauriscono tutti i problemi. E allora, oltre alle parole del Ministro della Salute e Speranza, che ha detto ci stiamo avvicinando al picco, l'hanno confermato anche i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità, l'epidemia da coronavirus in Italia è ormai prossima al picco, anche se durerà qualche giorno, probabilmente la fase, questa fase prima poi di avere una vera e propria discesa, e per questo la guardia deve rimanere alta, e anche per questo scoppiata di nuovo una polemica sulla circolare che riguarda i bambini. Scoppia la polemica per la nuova circolare del Viminale che prevede passeggiate genitori bambini vicino a casa. Critiche arrivano dalla Campania, messaggio gravissimo per il governatore Vincenzo De Luca, e dalla Lombardia, decisione insensata e irresponsabile per l'assessore al welfare Giulio Gallera. E il governatore lombardo Attilio Fontana annuncia al ministro dell'interno Luciana Lamorgese chiarirà. Intanto precisa, in Lombardia si rischiano sanzioni, prova a chiarire il viceministro agli interni Crimi, non c'è alcun allentamento dei controlli e la circolare del Viminale si riferisce ai bambini molto piccoli, quelli per cui uscire una necessità. E in una nota al Viminale precisa, le regole sugli spostamenti non cambiano, è possibile un solo genitore camminare purché in prossimità della propria abitazione per spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute. Continua nei bilanci a livello locale, secondo l'Eco di Bergamo i decessi di marzo sarebbero 4.500, più del doppio di quelli ufficiali, 2.060, in Piemonte sale del 44% il numero dei guariti e in Veneto frenano i decessi e continuano tamponi preventivi alla popolazione. Ma è allarme aiuti alimentari, tutte le 218 Caritas diocesane italiane segnalano un aumento significativo delle richieste dal 20 al 50%. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Allargando lo sguardo, calano i contagi in Corea del Sud e in Cina, e mentre l'epidemia si diffonde nel resto del mondo. Superano le 42.400 le vittime nel mondo, oltre 870.000 i casi di positività accertati, 180.000 dei quali negli Stati Uniti, 105.000 in Italia, 95.000 in Spagna. In Germania sono 71.000 i positivi, ma proporzionalmente poche le vittime. Ci allerta invece oggi negli ospedali di Parigi, dove i posti in rianimazione sono quasi esauriti. Attraverseremo due settimane molto dolorose, ha detto il presidente Trump. Negli Stati Uniti sono previsti fino a 240.000 morti, anche se le misure di distanziamento sociale saranno rispettate. La Casa Bianca sta valutando lo stop ai voli con molti paesi esteri, tra i quali il Brasile, dove aumentano i casi, e perfino il presidente Bolsonaro, finora negazionista, parla di una grande sfida per questa generazione. I contagiati sono ormai migliaia in tutto il Sud America, del resto, e salgono da 48 a 54 gli stati africani in cui si sono registrati casi di Covid-19. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prosegue il pressing italiano in Europa, stiamo parlando delle conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus, il pressing italiano, dicevamo, per ottenere strumenti comuni in Europa. Stiamo scrivendo pagine di storia e non di economia, ha detto oggi il Presidente del Consiglio Conte, provando a rilanciare il tema in una intervista alla TV tedesca. Una proposta per mobilitare risorse fino a 100 miliardi di euro al fine di finanziare le iniziative che i paesi colpiti dall'emergenza coronavirus metteranno in campo per combattere l'attesa impennata della disoccupazione è la base di lavoro su cui si sta muovendo la Commissione europea in vista dell'Eurogruppo di martedì prossimo. Il sostegno ai paesi in difficoltà verrebbe erogato mediante prestiti per finanziare le iniziative destinate a chi si trova in cassa integrazione per favorirne il rientro nel mondo del lavoro attraverso impieghi part-time e programmi di formazione. I prestiti comunitari potranno essere garantiti dai fondi ancora a disposizione nel bilancio europeo e da risorse messe a disposizione dai paesi membri. La Commissione si aspetta che il numero dei disoccupati registrerà una forte impennata in seguito alle conseguenze sulle attività produttive delle misure prese per fronteggiare la pandemia. Questo mentre prosegue il dibattito sui corona bond. La nostra generazione sfortunatamente ha già pagato lo scotto di una crisi 10 anni fa. Non si supera una crisi con l'austerità, ma investendo e spendendo. Il meccanismo europeo di stabilità non ha funzionato in Grecia, figuriamoci ora. Stiamo proponendo agli Stati europei di condividere i rischi per condividere in futuro le opportunità, ha detto il ministro degli esteri Di Maio. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso torniamo in Italia, in particolare in Lombardia, dove maggiore è stato ed è ancora il numero dei contagiati. Debutta in questa regione la app anonima per monitorare gli infetti. Sono stati coinvolti per realizzarla 74 esperti. Arriva in Lombardia la app da scaricare sul cellulare per monitorare la diffusione del coronavirus. Si chiama AllertaLom e raccoglierà i dati forniti dai cittadini in modo anonimo. A chiedere di scaricarla il vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala per aiutare i virologi a mappare il rischio di contagio a fini statistici. Non sostituisce nessun test nel controllo dei medici, ha spiegato Fabrizio Sala, ma è soltanto un'arma in più per contrastare l'emergenza Covid-19. L'app AllertaLom è disponibile sia nella versione per iPhone e per iPad, sia nella versione per Android. Esiste già da almeno 3 mesi, anche se era nata con funzionalità diverse, ovvero per ricevere le allerte della Protezione Civile della Regione Lombardia in caso di calamità naturali. Nella versione aggiornata c'è un servizio legato al coronavirus, dove bisogna compilare un questionario anonimo in cui viene chiesto il sesso, l'età e se si sono avuti sintomi o contatti con Covid positivi. AllertaLom non è la prima iniziativa in Italia. Anche in Sardegna, Marche e Umbria, per citare alcune regioni, ci stanno lavorando in attesa della scelta che sarà fatta dalla task force del governo composta da 74 esperti multidisciplinari e nominata con un decreto. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito delle iniziative di solidarietà, è online ed è già ai primi posti delle tendenze italiane di YouTube la canzone di Roby Facchinetti e Stefano Dorazio per Bergamo. Eppure sembra proprio che dalla piattaforma arriverà un aiuto economico molto molto limitato all'ospedale a cui è dedicato. Ecco perché. Rinascerò. Il video di Rinascerò Rinascerai, messo in rete venerdì, questa mattina aveva superato 7.500.000 visualizzazioni. Tutti i proventi della canzone di Facchinetti Dorazio vanno all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ma se si compra il singolo digitale è un conto, se si guarda il video invece il contributo è davvero minuscolo. Emerge dunque con chiarezza il value gap, già denunciato da tempo dall'industria discografica rappresentata dalla FIMI, la differenza tra il valore economico di ogni singolo brano e l'incasso riconosciuto dalla piattaforma. Si stima che YouTube riconosca 0,00069 dollari a passaggio. Nel caso di questo brano, all'ospedale bergamasco andrebbero al momento meno di 5.000 euro. Per questo il sito rockall.it ha lanciato una petizione. Perché YouTube non dà una mano, devolvendo a sua volta un importo per ogni visualizzazione della canzone? Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13 e 14 minuti, facciamo un break, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie, aspettiamo i vostri commenti al 349-238-6666 o anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Ripartiremo nel giorno in cui c'è la polemica per la passeggiatina, la cosiddetta passeggiatina dei genitori con bambini, ma vi abbiamo già raccontato di come il Viminale abbia chiarito, non è cambiato nulla, è ammessa per ragioni di necessità e salute, ma sempre vicino casa. Ecco, in questo stessa giornata arriva la lettera appello dei pediatri milanesi, importanti perché ci ricorda che, sebbene risparmiati dalle conseguenze del coronavirus, i bambini mostrano segni di contagio e sono un serbatoio importante di contagio per gli adulti. Ci sentiamo tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. La chiusura prosegue fino al 13 aprile, lo conferma al Senato il ministro Speranza, che parla di un lungo periodo di transizione e dice: investiamo nella sanità. Al via le richieste del bonus 600 euro sul sito IMSS, 100 domande al secondo, impossibile accedere. Non ci sarà un ordine cronologico, assicura però il presidente Tridico. Il premier Conte incontra i rappresentanti dell'opposizione al via un tavolo serrato, dice, in vista del nuovo decreto di aprile. Spostamenti con bambini. Il Ministero dell'Interno, su richiesta del Presidente della Regione Lombardia Fontana, precisa ancora: non cambia niente, sono consentiti, ma sempre vicino casa. A effetto giorno intanto la lettera appello dei pediatri milanesi: dopo 5 settimane a casa ci sono bambini contagiati, segno che il virus circola tra i parenti. E allora, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, avete sentito i titoli di Effetto Giorno, i titoli delle notizie di oggi. Come anticipato, è con noi il dottor Roberto Marinello, pediatra di Milano. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a lei, gli ascoltatori di Radio 24. Primo firmatario di un appello che, di cui adesso andiamo a parlare, nelle stesse ore in cui appunto si sta in realtà parlando per quanto riguarda i bambini per un'altra questione, cioè quella della passeggiatina consentita, ma l'abbiamo già spiegato, le precisazioni ulteriori del Viminale: non cambia nulla, è consentita per questioni di necessità e salute, ma sempre vicino casa, ricordiamocelo. Detto questo, e magari ne parleremo anche, dottor Marinello, veniamo alla vostra lettera, perché voi dite una cosa importante in questo appello. Scrivete: ricordiamo che, seppur fortunatamente risparmiati per motivi immunologici dalle gravi conseguenze del Covid, i bambini rappresentano una fascia di popolazione fragile e un potente serbatoio di contagio per gli adulti e gli anziani in particolare, e chiedete di essere coinvolti di più, maggiormente, nel sistema di sorveglianza dell'epidemia. Senta, intanto partiamo dal primo punto. Confermate che i bambini sono risparmiati dalle conseguenze più gravi del Covid? Sì, assolutamente sì. Diciamo che fortunatamente la mortalità infantile è molto molto bassa, quasi zero. Per uno strano discorso probabilmente di immunità innata, per cui i bambini tollerano la presenza di virus anomali e, diciamo, li combattono più blandamente senza avere quegli effetti distruttivi che hanno sull'adulto. Quindi stanno molto meglio degli adulti e degli anziani. E quindi, insomma, anche se non c'è forse ancora una pagina scritta a livello scientifico, però insomma questo è quello che state effettivamente... Stiamo sperimentando anche noi giorno per giorno. Perché certo, anche per noi è una novità, anche se devo dirle che qualche bambino, purtroppo due bambini sotto l'anno di vita sono deceduti, uno negli Stati Uniti e uno in Cina, e adesso si cominciano a sentire casi anche di adolescenti, purtroppo in Portogallo e in Francia, che ci hanno perso la vita. Quindi è tutta una situazione in piena evoluzione. Ecco, però bambini con contagio, stiamo parlando in questo caso della vostra area, diciamo, di operativa a Milano, ci sono bambini che hanno comunque qualche lieve sintomo? Assolutamente, ma abbiamo bambini ricoverati in ospedale anche in condizioni, non diciamo gravi, ma abbastanza serie, quindi sicuramente il problema c'è anche in pediatria, e quindi gli ospedali hanno non molti ricoveri anche in fascia pediatrica. Purtroppo l'attenzione, essendo portata giustamente sull'età, sulla terza età o certo, comunque le persone di una certa età, viene un po' dimenticata la fascia pediatrica, che, come giustamente diceva lei riportando il comunicato, è una fascia molto importante per la contagiosità estrema che hanno nei riguardi della popolazione. Ecco, parliamo di questo aspetto, perché effettivamente se ci sono a Milano bambini che contagiati, che hanno il coronavirus in questi giorni, ed essendo che stiamo da 5 settimane, i bambini in particolare non vanno a scuola, quindi sono fondamentalmente chiusi in casa. Certo. Evidentemente, dottor Marinello, qual è la conclusione che lei trae? La conclusione è che ci troviamo di fronte a un contagio intrafamiliare, nel senso che i genitori per motivi di lavoro escono, entrano, anche se sono sani, come abbiamo ben imparato tutti, esiste la figura del portatore asintomatico che può trasmettere anche la malattia e quindi il bambino ne viene affetto e diventa automaticamente un portatore di questa malattia, perché negli ambienti domestici è molto difficile mantenere questo distanziamento sociale di un metro, specie famiglie con 4, 5, 6 persone, e quindi questo serbatoio del contagio intrafamiliare poi si riporta nuovamente all'esterno, per cui, e mi scusi che colgo l'occasione per dire, i bambini portate ancora pazienza, genitori, prima di uscire, perché questo è un messaggio che vorrei enfatizzare, dire che se si tratta di stare in un giardinetto di casa, in un cortile, una mezz'oretta con la mamma o il papà possiamo stare, ma portare fuori un bambino, noi non sappiamo questo bambino dove cerchi di andare, che cosa voglia fare. Ecco, quindi... però è giusto specificare questo, però adesso intanto le farò un esempio su come mi sono comportato io con le mie due figlie, voglio capire se ho sbagliato qualche cosa e penso possa essere utile per tutti, però prima di arrivare a questo, a conferma di quello che diceva lei del contagio degli asintomatici, c'è una nota oggi che arriva dall'Università di Berlino, del virologo Christian Drosten, pubblicata sulla rivista Nature, che conferma che il coronavirus può essere trasmesso in modo efficiente anche da parte di chi ha sintomi lievi, perché riesce a moltiplicarsi con facilità anche nelle alte vie respiratorie. Questo a conferma di quello che diceva. Dottor Marinello, io mi sono comportato così una volta, non tutti i giorni, magari un giorno sì, un giorno no, due figlie, una di 4 e una di 8 anni, le ho portate a fare il giro dell'isolato, l'ho prese per mano, abbiamo fatto una piccola camminata, abbiamo respirato un po' d'aria e ho cercato di evitare, quando vedevo gente sul marciapiede, magari andavo dall'altra parte, senza entrare in nessun negozio, perché chiaramente non si può andare a fare la spesa coi figli, assolutamente, senza entrare in nessun giardinetto. Ho fatto qualcosa di sbagliato, ho messo a rischio me e i miei figli? Ma diciamo che forse ha fatto qualche cosa potenzialmente di pericoloso, poi ha governato la situazione, ma noi non sappiamo tante altre persone in tante altre situazioni cosa possono fare. Però diciamo anche una cosa, il virus non è che si contrae così passeggiando all'aria aperta, respirando a pieni polmoni, se non è passato qualcuno lì pochi secondi prima, se non si ha un contatto ravvicinato, perché altrimenti cambia tutto. Certo, questo è descritto, che il contagio sia questo, però comunque le particelle di aerosol, le particelle del virus possono girare nell'aria anche per diverso tempo prima di cadere per terra, quindi non è detto che sia una questione soltanto di distanza di un metro e di pochi secondi di... Anche all'aria aperta, dottor Marinello? Insomma, non perché possiamo... nei luoghi chiusi questo lo sappiamo benissimo, infatti cerchiamo di aereare, di stare all'aria lontani. All'aria aperta è decisamente più difficile, però ripeto, abbiamo ancora molte incognite su questo Tante virus, cose le da, sue modalità, da capire. Lo impariamo anche noi giorno per giorno. Tante cose da capire e da imparare, assolutamente. Io la ringrazio per essere stato con noi. L'ultima cosa, forse, che le faccio, l'appello che le faccio rivolgere è proprio quello di essere, come pediatri, coinvolti maggiormente nel lavoro, perché fino ad ora, a quel che voi dite, non è accaduto tanto questo, vero? No, e difatti ringrazio per la sua domanda, perché proprio nel comunicato, nella nostra lettera di gruppo di pediatri spontaneo, chiediamo proprio alla nostra ATS, cioè l'ex ASL, di coinvolgerci sia nella gestione di queste nuove USCA, che sono questi servizi territoriali di continuità assistenziale che andranno a domicilio dei pazienti adulti, ma anche bambini, a visitarli ed eventualmente a fare tamponi, sia anche con i centri vaccinali, dove abbiamo notato che a causa delle chiusure dei centri vaccinali le vaccinazioni sono ritardate. Noi siamo disposti, ovviamente a livello volontario, a aiutare anche queste strutture con la competenza dei pediatri sul territorio, che è molto molto qualificata. Benissimo, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei. E buona giornata. Grazie al dottor Roberto Marinello. Adesso, come anticipato, sentiamo com'è andato il sito dell'INPS in tilt, subito preso d'assalto per poter avere accesso al bonus 600 euro. Il presidente dell'INPS Tridico assicura che non sarà seguito un ordine cronologico, ma ciò nonostante le domande sono state ovviamente moltissime. Entrare si entra nell'INPS, anche se è un po' lento si entra comunque, il problema è che non c'è la voce, non c'è il tasto da cliccare. 5 minuti, una cosa semplicissima. Arrivi sulla domanda e ti dice che la domanda sarà disponibile a breve, la domanda non c'è. C'è chi ci riesce al primo colpo e chi invece proprio non ce la fa, lavoratori autonomi incastrati nel sito INPS per richiedere il bonus da 600 euro, molte le segnalazioni di utenti che collegandosi accedono ai dati sensibili di altri iscritti, 300.000 domande dall'una di notte alle 8.30, 100 domande al secondo, intasamenti inevitabili, spiega il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, ribadendo che le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi legata al Covid-19, intoppi anche per il server di posta dell'INPG, ente di previdenza dei giornalisti, per le casse aderenti all'ADEP, via libera dalle 12, interessati all'indennità, commercianti e artigiani, partite IVA e Cococò, professionisti senza cassa, lavoratori agricoli, stagionali del turismo e lavoratori dello spettacolo, sempre con limiti di reddito. Una platea complessivamente stimata in 5 milioni di persone. Partite anche le domande per i 15 giorni di congedo per i genitori, retribuiti al 50%, e il voucher babysitter da 600 euro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso della situazione al sud, al mezzogiorno e in particolare in Sicilia e ancora più in particolare a Troina, in provincia di Enna. Con noi l'assessore allo sviluppo economico del comune di Troina, Giuseppe Schillaci. Buongiorno, benvenuto. Troina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Precisiamo anche un aspetto che avremmo parlato, parliamo volentieri con lei naturalmente, ma avremmo interpellato anche il sindaco in rappresentanza della comunità, che però è a casa con la polmonite, se abbiamo capito bene. Purtroppo, sì. Cioè, ha fatto il tampone in attesa dell'esito. No, in realtà ancora non ha fatto il tampone, però la sintomatologia purtroppo è molto chiara e quindi al di là del tampone ha iniziato la terapia, insomma, per affrontare la malattia. Quindi il virus, diciamo, è confermato, purtroppo lo ha contratto nei primi giorni dell'emergenza, è stato in prima linea e quindi lo ha contratto. Allora, in Sicilia i dati sono fortunatamente per ora, credo che lei mi possa anche confermare, io sto guardando ai dati aggiornati per esempio sul sito Lab 24, Il Sole 24 Ore, ci sono tutti i dati regionali, sì, 72 persone in terapia intensiva, ricoverati con sintomi 503, in isolamento domiciliare circa 900 persone, però lì a Troina avete un caso particolare, oltre 100 positivi e c'è un focolaio dentro una residenza, che è un centro di assistenza per disabili che si chiama Oasi, 110 positivi. E che cosa può essere successo? Allora, l'Oasi è un IRCS di rilevanza mondiale per l'assistenza ai disabili mentali gravi. E di solito effettua, diciamo, dei ricoveri di lunga degenza, quindi ci sono degli ospiti permanenti all'interno della struttura, parliamo circa di 200 ricoverati che vengono assistiti quotidianamente da altrettanti operatori. E purtroppo all'interno di questi reparti, diciamo, dove si effettua l'assistenza a questi soggetti disabili, purtroppo si è insediato il virus e quindi... Ma questa residenza è sotto una tutela regionale, sotto una tutela comunale? Sì, è un istituto convenzionato con la sanità regionale, ovviamente. Sì, con la sanità regionale. Senta, ma che cosa può essere accaduto? Perché evidentemente un numero così alto di contagi o è stato un caso... veramente molto sfortunato. Oppure ci può essere stata qualche sottovalutazione, qualche errore, non è stato chiuso al pubblico, ai parenti che vanno a fare le visite per tempo. Per quello, cosa può essere per quello, per quello che ci risulta a noi come amministrazione comunale, nelle prime settimane in cui è partita l'emergenza, insomma, l'istituto aveva adottato quelli che erano i protocolli sanitari dettati appunto dall'ASP per questo tipo di strutture. Purtroppo fin dall'inizio c'è stata una carenza di dispositivi di protezione individuale. E considerato pure insomma le patologie di cui soffrono, certo, gli ospiti, come potete immaginare, non è facile fare capire insomma rispetto della distanza, le mascherine e mantenere le distanze per il maledetto che vivono, carenza di mascherine, vivono, la maledetta vivono, carenza di mascherine, esatto, esatto. Purtroppo queste cose, per esempio abbiamo notizie che anche al Cannizzaro di Catania, nel reparto di neurologia, dove ci sono insomma situazioni simili, è accaduto qualche giorno fa, sì, la stessa cosa. Senta, assessore Schillaci, ricordiamo anche che ci sono state due vittime all'interno del centro, dell'Oasi. Sì, purtroppo sì. Questo è giusto dirlo. Le voglio chiedere, per quanto è possibile adesso dirlo da parte sua e insomma dell'amministrazione, delle autorità sanitarie locali, pensate che la situazione possa essere tenuta sotto controllo, perché è stata dichiarata zona rossa Troina a questo punto? Sì, allora noi insomma abbiamo subito, il sindaco in quei primi giorni ha subito attivato tutte le procedure di contenimento, mettendo in quarantena quel giorno circa 1000 persone, requisendo un albergo che attualmente, sia dai primi giorni ma anche oggi, è utilizzato dagli operatori sanitari che prestano servizio, perché il problema è che i ricoverati hanno bisogno continuo di assistenza e quindi la situazione è critica anche per questo motivo, perché questi soggetti non possono essere lasciati soli e quindi devono essere assistiti anche durante l'emergenza. Per quello che ci risulta attualmente, diciamo all'interno della città, sembra che il propagarsi del virus sia abbastanza contenuto, quindi i casi anche che abbiamo in isolamento domiciliare a casa sono legati ad operatori, sì, sanitari della struttura, mentre molti altri addirittura non hanno fatto ritorno a casa, ma hanno utilizzato l'albergo requisito con cui si è creato questo cordone sanitario per l'alloggio individuale degli operatori sanitari. Io la ringrazio, assessore, sì, scusi, devo purtroppo interromperla perché dobbiamo dare la pausa, abbiamo assolutamente la pausa da dare. Io la ringrazio, assessore Schillaci del Comune di Troina, dove c'è una situazione abbastanza insomma importante, grave, con tanti casi, una percentuale importante in un solo piccolo paese di casi di contagi in tutta la Sicilia, avete sentito, all'interno del centro di assistenza per i disabili Oasi. Facciamo una piccola pausa, 13:33 minuti, informazioni di borsa, poi torniamo con tutte le altre notizie, i titoli, e sarà con noi Luca Zaia per parlarci anche del test per gli anticorpi, sugli anticorpi che la Regione Veneto farà a partire dai prossimi giorni sugli operatori sanitari, ma poi su tutta la popolazione, e anche di una terapia a base di plasma dei pazienti guariti che è stata autorizzata proprio in Veneto. Effetto giorno. Queste notizie di oggi, la chiusura prosegue fino al 13 aprile, lo conferma al Senato il ministro Speranza, che parla di un lungo periodo di transizione e dice: investiamo nella sanità. Al via le richieste del bonus da 600 euro sul sito dell'INPS, ma per molti è stato impossibile accedere. Non ci sarà un ordine cronologico, assicura intanto il presidente Tridico. Il premier Conte incontra i rappresentanti dell'opposizione e annuncia al via un tavolo serrato proprio con l'opposizione in vista del decreto di aprile. Spostamenti con bambini. Il Ministero dell'Interno, su richiesta del presidente della Lombardia Fontana, precisa ancora: non cambia niente, sono consentiti per necessità e salute e sempre vicino casa. In Veneto parte la sperimentazione del test degli anticorpi, prima ai sanitari e poi a tutti, così il governatore del Veneto Zaia, tra poco nostro ospite. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, 13:38 minuti. Cari ascoltatori, avete appena sentito i titoli delle notizie di oggi principali, i vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno o sulla pagina, sul sito di Radio 24, sulla pagina di Effetto Giorno. Vado velocemente. C'è questo ascoltatore che non si firma, ma che a proposito dell'intervista con il pediatra milanese dice: sta passando il pediatra il messaggio che il virus passa anche respirando l'aria aperta. Allora ci hanno preso in giro, che se l'espressione usata è un'altra, per 2 mesi con la storia del metodo di distanza? Punto di domanda. Chiarezza, chiarezza, chiarezza, evoca questo ascoltatore. Allora, chiarezza, chiarezza. Rispondo per quello che credo di avere capito io. Allora, il pediatra non ha detto che all'aria aperta si può prendere il virus. Diciamo che sappiamo bene che al chiuso, all'interno delle nostre abitazioni, degli uffici, c'è un tema di ore e ore di possibile galleggiamento del virus. Quindi bisogna areare e tenere le mascherine e stare lontani l'uno dagli altri. Ma all'aperto no, questo problema non è mai stato sollevato. Io credo che i dubbi dei pediatri siano legati a 2 cose. Intanto che è tutto nuovo, e quindi lo ha detto chiaramente anche il dottor Marinello, non possiamo dare nulla per scontato. E poi credo che si voglia evitare semplicemente l'affollamento all'esterno, quindi non si vuole dare un messaggio di via liberi tutti. Si può fare la passeggiatina, però mi raccomando, evitiamo di avere contatto ravvicinato con le persone, facciamolo per pochi minuti, torniamo subitissimo a casa. Questo è quello che ho capito io, mi assumo la responsabilità naturalmente di quello che dico. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. Ogni epidemia ha il suo assalto ai forni. L'ansia da povertà nel 600 aveva portato le folle a cercare disperatamente pane. Oggi, in epoca 4.0, quella stessa angoscia si riversa nell'assalto al sistema informatico dell'INPS, che deve erogare le prime forme di aiuto, a cominciare dal bonus di 600 euro per le partite IVA e per i lavoratori soci di SNC e SRL. Sostanzialmente sono interessati i liberi professionisti, i co-co-co, gli autonomi iscritti alle gestioni speciali, gli stagionali del turismo, i lavoratori agricoli, nonché gli addetti allo spettacolo. Il sito è oberato di richieste, 300.000 solo nella notte e ora 100 al secondo, e non riesce a far fronte all'ondata dei click. La platea complessiva stimata è di 5 milioni di persone. La corsa è dovuta anche a una cattiva informazione iniziale. Gli aiuti, si diceva, hanno uno stanziamento limitato, quindi chi prima arriva lo prende e chi tarda lo perde. Le correzioni successive, che spiegavano come lo stanziamento sarà rivisto di volta in volta nei vari decreti e che non farà fede il criterio cronologico, non sono stati sufficienti a placare le ansie collettive. E forse è proprio questa la caratteristica vera di questa maledetta pandemia: aver creato un clima di paura che nessun buon senso riesce ad arginare. È con noi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, per commentare due notizie che vengono dalla sua regione, due notizie importanti. Una riguarda il test per gli anticorpi, quindi il numero dei contagi, il numero dei contagi reali, i numeri reali di cui si sta parlando molto anche in questi giorni, ma anche un po' per valutare lo stato immunitario complessivo della nostra popolazione. L'altro è un tema che riguarda invece la possibile terapia, un cambio di passo anche nella terapia, Zaia. Cominciamo però dal test. Che tipo di test è questo degli anticorpi? A cosa serve? Ma guardi, noi abbiamo fatto 107.000 tamponi, abbiamo i test rapidi, questa è, diciamo, l'ultima frontiera, quello del test sierologico, perché valuta dall'analisi del sangue il fatto che ci siano le IgG e le IgM, quindi le monoglobuline, che stanno a significare poi l'immunizzazione avvenuta, cioè vuol dire che il soggetto ha un tampone negativo, cioè non è più contagioso, traduciamola così, ed ha addirittura sviluppato la sua immunità. Questo significa che questo soggetto non avrà problemi, in linea di principio, in linea scientifica non dovrebbe più avere problemi. Però questo deve ancora in qualche modo essere accertato, validato, diciamo, da una, come dire, da una parola scientifica definitiva, da una ricerca scientifica, perché quel che ho capito io, Zaia, fino a questo momento non si può stabilire con certezza se questa immunità poi scatta. Questo è ancora da capire. Però lei dice intanto questo è un test per valutare se gli anticorpi ci sono. Ma guarda, Guardi, il tema vero è che noi abbiamo un progetto firmato dai due responsabili, diciamo, che faranno queste analisi, il professor Lippi e il professor Plebani, rispettivamente Università di Verona e Università di Padova. E il principio anticorpale funziona su questa base, cioè nel momento in cui il corpo reagisce all'estraneo, cioè al virus, sviluppa gli anticorpi che fanno fronte, quindi fanno diga, fanno muro all'ingresso del virus che dovrebbe causare i sintomi. Che causa i sintomi? E la risposta anticorpale ovviamente ha il significato che il virus c'è stato ed è stato combattuto. Senta, lei che idea si è fatto intanto, prima di parlare poi della terapia che prevede l'utilizzo del plasma delle persone guarite, che idea si è fatto sul numero reale del contagio? È stato detto bisogna moltiplicare per 10% l'Imperial College di Londra, che annovera epidemiologi di fama mondiale, ha stimato per il nostro paese fino a un 10% di persone possibili contagiate. Ma sì, ma guardi, probabilmente saranno anche di più, cioè noi ne abbiamo 9.700, delle quali 20.000 in isolamento e 2.100 in ospedalizzate, delle quali 350 in terapia intensiva. Io penso che siano proporzioni forse anche sottostimate, cioè il numero reale lo si potrebbe sapere solo testando e screenando tutta la popolazione. Penso che sia verosimile, insomma, che questi siano i numeri. Poi sa, la comunità scientifica sa sempre un sacco di cose, ma si è dimenticata di dirci ad esempio che di comprare mascherine, di comprare tamponi e di approvvigionarci di respiratori meccanici. Beh, non è la comunità scientifica però che si è dimenticata di farlo, abbiamo avuto problemi a approvvigionarlo, non credo che qualcuno si sia dimenticato di dire sono cambiate le linee guida, però le linee guida le fanno i tecnici coi politici, Zaia. No, allora. Guardi, cioè, io ho detto un'altra roba e non sono d'accordo con lei. Questi pazienti, le faccio un esempio, sono dei grandi utilizzatori di ossigeno. Sì. E questo non lo può sapere la politica, no? Lo può sapere solo chi studia il caso Wuhan, che ha studiato quel fenomeno. Ecco, il grande utilizzatore di ossigeno non vuol dire solo avere un magazzino di ossigeno appropriato, ma vuol dire anche che per l'effetto fisico della laminazione gli impianti che portano l'ossigeno al posto letto, alla terapia intensiva, si congelano. Ecco, vede, queste sono cose che si debbono sapere e sono aspetti assolutamente clinici. Se qualcuno venisse da lei fra un anno a chiederle delle indicazioni in virtù dell'arrivo del coronavirus nel suo paese, lei direbbe subito: provvigionatevi di mascherine, di tamponi e di respiratori. Cioè lei dice la comunità scientifica non era informata in Italia su questo? Non ha dato indicazioni chiare su questo? Io glielo dico da governatore, noi non abbiamo avuto queste indicazioni. Chi è che doveva darci queste indicazioni? Chi è che doveva darcele? Non lo so, scusi, non lo chieda a me, lei che amministra, non io. Ma siccome lei ha detto che sbaglio, io le dico anche di più e vedrà che mi dà ragione. La sentite anche lei oppure no le frasi Da parte di autorevoli esponenti della comunità scientifica che hanno detto e dicevano che la mascherina serve solo per i sintomatici e non per tutti? Abbiamo sentito tutti queste frasi? Ah no, certo, questo è vero. Io personalmente, adesso faccio una battuta, finirà questa crisi e non avrò ancora capito se la mascherina devo usarla o non devo usarla. Ma non ho detto che lei ha sbagliato, Zaia, non ci siamo capiti. Io ho detto un'altra cosa. Se si riferisce lei ha tirato subito in ballo la politica. Quando si vuole buttarla sempre in polemica, si dice: ma la politica? Ma la politica lei ha detto che la comunità scientifica si è comportata in un certo modo. Allora io ho detto che la politica ha fatto certe altre cose. Tutto lì. Ma cosa vuol dire? Guardi, io ho una laurea scientifica. Non vuol dire niente, Zaia. Guardi, ma non è questo il punto. Non credo che interessa agli ascoltatori. Mi faccia anche parlare. Sì, no, però mi scusi, la interrompo su una cosa, dicendo, poi la faccio proseguire. Non credo che interessi agli ascoltatori una disputa tra me e lei che io, fra l'altro, non volevo aprire e non credo di aver aperto. Ma mi perdoni, non ha nessun senso. Nel momento in cui io le dico semplicemente, faccio una considerazione, che la comunità scientifica, dico, secondo me doveva darci anche delle indicazioni pratiche, perché loro hanno studiato il caso, non l'ho studiato io, non l'ho studiato. Lei mi dica, ma anche la politica ha fatto altre cose. Non so cosa c'entra una frase del genere, mi perdoni, non so cosa c'entra. No, c'entra il fatto che lei fa un'accusa pesante a questo punto, dicendo che la comunità scientifica ha fatto degli errori. Ammettiamo che abbia fatto degli errori, però... Forse lei si è perso delle puntate. Sì. Cioè, guardi che se ne parla da settimane di questo fatto che alcune indicazioni non sono state chiare e quindi operativamente abbiamo avuto qualche difficoltà. Io no, il punto, sì, Zaia, poi chiudiamola qua perché, ripeto, credo che non interessi più di tanto agli ascoltatori. Il punto è stabilire chi ha cambiato certe linee guida, se le linee guida le fanno gli scienziati o se le fanno i tecnici al servizio della politica, l'Istituto Superiore di Sanità, la Protezione Civile, il Comitato Tecnico Scientifico. Un conto è questo. Il Ministro della Salute, un conto è dire gli scienziati. Abbiamo l'obbligo dell'informazione. Sì. Le linee guida le fanno gli scienziati, perché l'Istituto Superiore di Sanità è autorevolmente rappresentato da scienziati, non da burocrati, e così l'OMS. Io non sto contestando né l'OMS né l'Istituto Superiore di Sanità, ho semplicemente detto, gli ho fatto l'esempio della mascherina, lei mi ha detto, ma io ancora non ho capito se si deve portare o no, glielo dico io, si deve portare, perché se sei sintomatico eviti di contagiare e di emettere il tuo virus nell'aerosol e quindi che qualcuno se lo respiri. Se non sei sintomatico e non sei positivo, eviti di beccarti il virus sì, da qualcun altro. Si deve portare, però non bisogna toglierle, visto che mancano agli operatori sanitari, per esempio. Detto questo, oggi per dirle, le mascherine chirurgiche si trovano, sui mercati si trovano, tanto è vero che il sottoscritto ha proposto alla Protezione Civile di non far più i sequestri, in maniera tale che anche i cittadini possano andare a comprarsi magari nei supermercati. Senta Zaia, l'altra cosa, però abbiamo poco tempo a questo punto, invece è molto importante, la terapia a base di plasma dei pazienti guariti, che cosa consiste? Ma guardi, di questo non posso anticipare nulla perché c'è ancora studio, quindi non sono in grado di anticiparne nulla. Noi stiamo lavorando anche su questo fronte, come anche sul fronte delle sperimentazioni, come lei immagino. Noi abbiamo 6 farmaci in sperimentazione e stiamo attendendo il 7° farmaco, che è l'Avigan, anche quello per sperimentarlo, senza illudere i cittadini e per vedere se ci sono delle possibilità di cura. Anche qui sull'Avigan si è fatto un sacco di polemiche, AIFA lo ha autorizzato, c'è un protocollo di sperimentazione e da questa mattina si sa nella stampa straniera, molto probabilmente ci sarà domani sui giornali nazionali, che in Giappone lo stanno distribuendo per i loro pazienti. Ma è corretto che l'Istituto Superiore di Sanità ha autorizzato l'ospedale di Padova in particolare a fare questi test, queste prove con il plasma dei pazienti guariti, è questo? Ma abbiamo un progetto su questo, però come ripeto non sono in grado di darle ulteriori spiegazioni perché il progetto nello specifico non lo conosco, so Vabbè. Assolutamente che stiamo ragionando anche su questo fronte. Ma non ho altri elementi da aggiungere. Va bene, grazie Zaia, buona giornata. Lavoro, grazie, buon lavoro, buon lavoro. Traffico. Effetto giorno. Eccoci qua, 13:52 minuti, nuovo in diretta con Effetto Giorno e nello spazio in cui normalmente sentiamo i giornali internazionali letti da Giulia Crivelli, oggi assente giustificata, ritroviamo Giampaolo Musumeci. Buongiorno, presente giustificato a questo punto, no? Facciamo finta di non sapere la gag che ormai... No, presente ingiustificato. È ingiustificato, noi dobbiamo andare avanti così fino al 2021. Uno. Almeno, sicuramente. Fino all'inizio delle Olimpiadi del 2020, così. Allora Giampaolo, per tenere l'attenzione sulle notizie internazionali, voi oggi su cosa state lavorando? Coronavirus immagino anche per voi? Ma sì, diciamo coronavirus sullo sfondo, lo sforzo che stiamo cercando di fare in queste settimane ovviamente è tenere d'occhio quella che è la pandemia, soprattutto con i suoi risvolti sulle relazioni internazionali, sulla geopolitica, però ogni tanto anche cercare di far passare le notizie, comunque il mondo sta girando, succedono cose al di là e con la pandemia, quindi ci occuperemo soprattutto di Libia, perché da oggi sostanzialmente prende il via la nuova missione navale Irene, quella europea che sostituisce Sofia. Cercheremo di capire meglio quanti mezzi verranno schierati, con quali finalità, perché la Libia è un vero caos. Ci sono 10 casi ufficialmente registrati adesso. Sì. E diciamo anche in questo quadrante, in questa puntata di Nessun Luogo, tratteremo il coronavirus come grande stress test. È qualcosa che mette alla prova strutture sanitarie, sistemi di governo, fa vedere le fragilità, i punti di forza, le debolezze di stati, di società. Nel caso della Libia, verrebbe da dire piove sul bagnato, perché la guerra non si è fermata, Haftar preme a sud di Tripoli, preme su Misurata, è forse il primo assalto vero e proprio a Misurata, e quindi sprezzante anche dei consigli di Guterres, dell'ONU, del Papa, che ha invocato un cessate il fuoco concomitante con questa pandemia. Il generale Haftar continua a ricevere aiuti cospicui dagli Emirati Arabi Uniti e punta a Tripoli. Cercheremo di raccontare cosa sta accadendo in queste ore proprio. Che altro ancora, Giampaolo? Ma è degno di nota. Ieri vi ascoltavo con attenzione, tu e Giulia Crivelli, perché raccontavate giustamente l'emergere di questa figura, Andrew Cuomo, a New York, che si sta comportando da vero statista, no? Sentivo anche Giulia particolarmente rapita, diciamo, da questa figura. In effetti ha una leadership molto carismatica, molto sobria, è un grande pragmatico a tutti gli effetti. Oggi la BBC fa un ritratto analogo, però ci porta in Ohio, dove il governatore Mike DeWine è stato, e così intitola la BBC, il primo a vederci lungo, cioè il primo a intravedere quello che sarebbe stato, poi Trump l'ha definito tsunami, no? A tutti gli effetti. E ha chiuso sostanzialmente l'Ohio in tempi meno sospetti, sono state rimandate, lo ricorderete, le primarie democratiche, col risultato che il lockdown totale anticipato sta causando zero casi, e quindi un comportamento all'inizio visto con sospetto in realtà si sta rivelando super, super virtuoso. E quindi questa è un'altra figura che sta emergendo, no? In seno all'amministrazione americana, anche lui repubblicano. Diciamo che la crisi, ancora una volta, no? Osservare la pandemia come faro illuminante, stress test o acceleratore di crisi, ci fa vedere le personalità che emergono. Qualcuno diceva addirittura che Cuomo potrebbe entrare nella campagna presidenziale, lui ha detto di no, un po' come qua, venendo dalla Lombardia, Gallera ha detto non mi candido a sindaco di Milano, poi tutte le dichiarazioni che vedremo. Certo, anche poi andando in Europa, insomma, si parla di Mario Draghi, no? Super Mario, che sta riemergendo come grande figura. Ecco, la pandemia, che è veramente uno stress test globale, diversa dalla guerra. Io sono un po' riluttante a utilizzare la metafora bellica, no? Perché in guerra c'è un fronte, ed è vero che qua c'è un fronte, sono gli ospedali, certo, normalmente, i supermercati, insomma, dove c'è contatto. Però diciamo che i fronti sono piuttosto confinati in un conflitto. Guardiamo quello libico, Tripoli, Misurata, è finita lì, no? Le retrovie stanno, tra virgolette, al sicuro. Ecco, qui no, qui ci sono tante front line, e quindi credo che forse quella metafora non spieghi esattamente. Certamente sta facendo emergere le leadership, cioè chi è bravo a governare nell'emergenza. Abbiamo detto tante volte, finché il mare è calmo, guidare la nave e tenere il timone dritto è facile, insomma, no? Se non sei particolarmente sprovveduto. Quando il mare diventa agitato, emerge chi sa tenere il timone come si deve. Appuntamento con te, Nessun Luogo è Lontano. Giampaolo, grazie per essere stato con noi. Naturalmente alle 16 è tutto invece per questa puntata di Effetto Giorno, con Andrea Roccabella in regia, Luca Cremonese in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione come sempre. Da Alessio Maurizio l'auguro di una buona giornata. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14.